America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. We are going to make our country so strong. We are going to start winning again. And we're going to win so much, you are going to be so happy. We are going to make America so great again, maybe greater than ever before. Ecco, avete sentito Donald Trump in una sua classica esposizione. Qualcuno la definisce creatività, altri sfrontatezza. Altri ancora arrivano a paragonare i messaggi di Donald Trump a una ventata di aria fresca. Ecco, tutto vale, naturalmente, ognuno può dire quello che vuole, però una cosa è certa. La combinazione di creatività, sfrontatezza, novità di Trump, beh, gli danno in questo momento un vantaggio incalcolabile nei confronti di Hillary Clinton, con, e questo devo dire il fatto più immediato delle ultime ore, degli ultimi giorni, con un'inattesa inversione delle parti, perché in questo momento Trump sta riunendo i repubblicani, mentre i democratici si spaccano. The people of California should not have the right to determine who the next president will be. We are in till the last ballot is cast. E si spaccano perché, beh, l'avete sentito, Bernie Sanders che continua a vincere, questo è dal discorso in California di martedì 17 durante lo spoglio dell'Oregon e Kentucky, e lui conferma quello che ha sempre detto negli ultimi tempi. Dicono, dice, che dovrei ritirarmi, forse i cittadini della California non dovrebbero avere il diritto di scegliere il presidente? Resteremo nella sfida fino all'ultimo voto, in California il 7 giugno. Ecco, devo dire che non è soltanto il disturbo Bernie Sanders che sta mettendo in difficoltà Hillary, ma uno sviluppo, come vi dicevo prima, proprio del tutto inatteso. E cioè, invece di quella crisi di rottura del Partito Repubblicano che tutti ci aspettavamo a Cleveland, che Trump sarebbe stato contestato, che ci sarebbe stata una spaccatura totale, qui c'è il rischio che alla convention di luglio sia invece il Partito Democratico a presentarsi in ordine sparso, sfilacciato da questo confronto fra Hillary e Bernie. Perché? Ma per esempio l'altro giorno gli attivisti di Sanders hanno attaccato fisicamente i sostenitori di Hillary Clinton in Nevada, e una cosa di questo genere avrebbe destato scandalo. E invece Bernie conquista l'Oregon, non solo rilancia, perché ieri ha attaccato la leadership democratica accusandola di parzialità a favore di Hillary, perché c'era stata una mozione d'ordine contro i sostenitori di Sanders per questi disordini in Nevada. Quindi lui naturalmente respinge e ha avvertito i suoi che c'è un gioco sporco contro di lui. Insomma, Sanders, come vi ho detto, andrà avanti e soprattutto ha già anticipato che userà la voce dei suoi delegati, che saranno forse oltre 1500, per agitare la protesta alla convention di Filadelfia. Ecco, è difficile calcolare il costo di questa ostinazione di Sanders per la campagna di Hillary Clinton nel contesto dello scontro diretto Hillary-Donald. Però, ecco, devo dire, non c'è dubbio che questo, in questi giorni, la Clinton sta passando uno dei suoi momenti più difficili, e questo per tre ragioni. Intanto, non riesce a dominare il suo unico concorrente diretto, mentre Trump ha già debellato, anzi ha distrutto, ha maciullato i suoi 16 antagonisti nel giro di pochi mesi. Quindi, Hillary sembra debole, Trump sembra fortissimo. Due, in qualche modo Hillary ha dovuto intaccare il suo orgoglio di donna e quindi si è appoggiata a due uomini per contrastare Trump. Primo, a presidente Obama, perché il discorso dell'altro giorno che vi ho proposto della Rutgers University è stato un discorso molto importante, ma è stato Obama che attaccava Trump. E poi si è appoggiata al marito, Bill Clinton, anticipando un forte ruolo economico nella sua amministrazione se vincerà la presidenza. Ecco, in realtà tutti hanno capito che Bill non servirà a mettere a posto l'economia, ma a portare dalla sua parte il white blue collar, quel lavoratore bianco che oggi si sente più rappresentato da Trump con i suoi attacchi al libero mercato che dalla signora Clinton, che, come dire, sa un po' di stantio in ogni sua uscita. Del resto basta leggere le sue email, io ricevo in continuazione queste email dalla sua campagna naturalmente, e non so, mi dice: Mario, Sanders avanza, vuoi che Trump vinca a novembre? Dammi un dollaro. Allora, che Trump avanza lo sappiamo tutti, poi mi chiedi un dollaro, insomma, non suonano naturali, non suonano vere, e quindi se da una parte posso avere una grande ammirazione per un software che è in grado di personalizzare col mio nome di battesimo un messaggio simultaneo via email a milioni di persone, sono messaggi un po' noiosi, vecchi, scontati, che davanti all'attivismo frenetico di Trump, per esempio su Twitter, beh, scompaiono. E in effetti devo dire, non ho neanche ricevuto ricevuto un'email da Trump. Questo vuol dire che lui usa lo strumento molto meno di Hillary, divertendosi invece a fare notizia su Twitter. E Twitter poi viene ripreso da tutti. Su Twitter, per esempio, che Trump ha annunciato il suo incontro di ieri con Henry Kissinger. E già questa è stata una novità. Ma come Trump vede Henry Kissinger, il grande novantenne, il grande padre della politica estera americana, dei repubblicani? E quindi ieri a New York, qui a Park Avenue, beh, le strade erano bloccate. C'erano incredibili folle di gente agli angoli della strada, polizia che formava dei cordoni di protezione, proprio quando Trump stava entrando negli uffici di Kissinger. E poi, devo dire, riesce anche Trump ad essere un passo avanti, perché quando Hillary continua a chiedere lo stesso dollaro con una variazione dello stesso messaggio, beh, il Donald già sta pensando alla prossima mossa, alla prossima ondata, dunque ha già rilanciato e ha detto: parlerò con il leader nordcoreano Kim Jong-un per convincerlo che dovrà smetterla con gli esperimenti atomici e so che avrò successo. Ecco, naturalmente questo ha già creato sensazione. Anche Hillary a un certo punto dovrà cambiare marcia, dovrà smetterla di dirci via email cose scontate, perché se vorrà contrastare Trump dovrà anche lei trovare la ventata d'aria fresca. Il suo problema è che per ora l'unico nel partito che è riuscito a ispirare i giovani è stato un senatore socialista di 74 anni fino a ieri sconosciuto ai più. Merito suo, merito di Bernie o demerito di Hillary? Beh, questo ce lo dirà la convention, però il tempo stringe. I democratici hanno poco meno di 2 mesi per cambiare timbro e presentarsi uniti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su americano24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, come dire, c'è stato un passaggio 30 anni fa, abbiamo proprio adesso il 30° anniversario degli Aerosmith Run DMC, un passaggio in cui si è, come dire, miscelato il tradizionale rock degli Aerosmith con il rap dei Run DMC. Ecco, e quindi è come dire il diavolo con l'acqua santa, inventatevi qualunque cosa anche voi, però qui i democratici dovranno mischiarsi, dovranno fare miscela per andare avanti. E dunque, walk this way, andate in questa direzione, Aerosmith and Run DMC. Loro ci sono riusciti, potranno riuscirci anche gli altri. A New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!